1727, Marena. Prendete ciliegie marasche vere, le quali, benché mature, devono essere molto agre, levate nei gambi e disfatele come l'uva quando si pigia per fare il vino. Poi mettete da parte una manciata di noccioli per l'uso, che vi dirò in appresso, e riponete le ciliegie con un bel pezzo di cannella intera in luogo fresco, entro a un vaso di terra, per aspettarne la fermentazione, la quale deve durare almeno 48 ore. Ma dal momento che le ciliegie hanno cominciato ad alzare, affondatele e mescolatele di quando in quando. Ora occorrerebbe uno strettoio per estrarne il sugo, ma se manca, servitevi delle mani strizzando le ciliegie a poche per volta entro un canovaccio rado. Il bello di questi siroppi, come vi ho detto, è la limpidezza, e però quando il sugo ha riposato, decantate la parte chiara e l'altra che resta passatela più volte per filtro di lana. Ottenuto così il liquido depurato, mettetelo al fuoco nelle seguenti proporzioni e col rammentato pezzo di cannella. Sugo depurato, chilogrammi 6. Zucchero bianchissimo in polvere, chilogrammi 8. Acido citrico, grammi 50. Per versare lo zucchero e l'acido citrico, aspettate che il liquido sia ben caldo e poi mescolate spesso onde lo zucchero non si depositi in fondo e non prenda di bruciato. La bollitura deve essere breve, 4-5 minuti sono bastanti a incorporare lo zucchero nel liquido. Una bollitura prolungata farebbe perdere l'aroma al frutto, mentre che una insufficiente produrrebbe col tempo la deposizione dello zucchero. Quando levate la marena dal fuoco, versatela in un vaso di terra e imbottigliatela di accia. Tappate le bottiglie con sughero senza catrame e conservatele in cantina, dove tanto la marena che i siroppi si manterranno inalterati anche per qualche anno. Per ultimo, vi indicherò l'uso dei noccioli surricordati. Questi asciugateli al sole, poi schiacciateli e levatene grammi 30 di mandorle, le quali pesterete finissime in un mortaio e mescolerete alle ciliegie prima della fermentazione. Col loro grato amarognolo, queste mandorle servono a dar più grazia al siroppo.